cuore, stanotte amore, vorrei capire se ti scelgo solo per non pensare. Universo che corre pure, respirare il mio sapore, tenere ancora la mia mano e poi volare via insieme. Vorrei perdermi in te.